stato ignorante, sono stato ignorante. Non puoi pensarla in grande, qua ti tagliano le gambe. Goditi questi momenti, sarai grande. Potrai insegnarle prima bastonate, dopo esorcizzate barre. Tiro fuori zanne, se mi sento pestare le zampe. Su troppe tane sei cascato tante. Quante le volte che poi ha chiuso gli occhi per poi disprezzarle. Ci sei caduto, son bastarde. Stancherò di farlo finché c'ho la stecca come il biliardo. Anche se c'ho un padre, devi essere un bastardo. Mami, scusami se sono stato più strada che in casa. Coi cazzoni sempre troppo larghi e capelli in testa. Ti chiedo scusa a mano aperta, che senza musica mi sento perso. Un po' come mio nonno, 3 metri sottoterra. È questo che mi rende libero. Il rap è la mia preghiera, lo prego.